la mia terra, sacro il mio dolore. Uomini di un altro pianeta mi hanno rubato il cuore. Madre mia è la terra, padre mio il cielo, sorelle mie le stelle, l'alba, la luna, la valle. Lo sguardo nostro era infinito, le nostre tende un paradiso. Le mandrie di colpo anelavano, poi ci cacciarono quando arrivarono. Un popolo con gli occhi pieni di luce, a cui vorrebbero cancellare la storia. L'uccello sacro della memoria, lui vola libero oltre ogni sfera. La nostra religione era la natura, l'acqua del fiume, una pioggia di sole. In ogni azione risplendeva tolleranza. Siamo stati massacrati, umiliato alla sapienza. Grazie Padre Cielo di avermi dato la pioggia, una terra da coltivare, un cavallo per cavalcare, praterie sconfinate, orizzonti a non finire, danze da danzare, un fuoco acceso nel mio cuore, una famiglia da incoronare, una canzone al giorno amore, che ti proteggerà da ogni scoria, da ogni male. Grazie Padre Cielo di avermi dato la saggezza, la speranza che vedo ovunque, in ogni respiro, in ogni sua essenza. Grazie alla tua luce che ogni mattina illumina i campi, il grano e guarisce ferite e dona a tutti deboli e potenti. Grazie sorella vita di annunciarmi il giorno della mia andata. Ti seguirò a bocca chiusa, io seguirò la tua strada. Avrò cercato l'amore, cercato speranza in ogni cuore, seminato tutti i miei campi ed avrò vinto i miei tormenti. Sarà festa ancor più grande per un grande popolo sofferente. Sarà festa ancora più bella per un popolo figlio di una stella. Grazie Padre Cielo. Grazie Padre Cielo. Avrò cercato l'amore, cercato speranza in ogni cuore, seminato tutti i miei campi ed avrò vinto i miei tormenti. Sarà festa ancor più grande per un grande popolo sofferente. Sarà festa ancora più bella per un popolo figlio di una stella. Grazie Padre Cielo. Grazie Padre Cielo.